Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il Presidente del Consiglio risponde alle critiche delle regioni e dell'opposizione. Riaprendo tutto, a maggio il contagio risalirebbe altissimo. E le regioni intanto procedono in ordine sparso, bar e ristoranti aperti da oggi in Calabria e in Liguria, sia vivai e toelettatura per cani. Si sblocca l'iter per la app Immuni, via libera al decreto per la tutela della privacy, scaricabile dal 18 maggio. L'Istat l'emergenza spinge i prezzi dei beni alimentari, la disoccupazione all'8,4%, calano le persone in cerca di un lavoro. E buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque va avanti lo scontro politico innescato dalla Lega e da alcune regioni contro le decisioni del governo. Da un lato la Calabria che annuncia di riaprire bar e ristoranti all'aperto sfidando l'ultimo decreto del 4 maggio, dall'altro la Lega che da ieri sera ha occupato alcune aule parlamentari, non seguita però da Forza Italia e da Fratelli d'Italia. Tutto questo mentre il Presidente del Consiglio Conte stamattina ha risposto in aula con una informativa a tutte queste critiche e ha fatto il punto sulle misure di contrasto al Covid. Sentiamo. Non ci sono i metri di distanza davanti. Dopo la bagarre scoppiata fra i parlamentari per l'uso delle mascherine, il primo ministro Conte nella sua informativa alla Camera ha difeso le sue scelte e spiegato cosa farà ora l'esecutivo. Ha iniziato citando Platone e Aristotele per richiamare la differenza fra opinioni e tesi scientifiche e ha chiuso con un omaggio ai cittadini. Giuseppe Conte non usa giri di parole per ribadire che la ripresa, l'apertura totale dell'attività deve essere graduale per evitare che la fase 2 coincida con una recrudescenza dei contagi e ha definito illegittime le aperture non concordate degli enti locali. Iniziative di enti locali che comportino l'introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale non sono possibili, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge illegittime. Nelle prossime settimane proseguiremo con una sperimentazione e monitoraggio costante sia del sistema sanitario sia dei livelli di contagio, sia attraverso l'app Immuni, sia infine attraverso 150.000 test sierologici. Per le piccole e medie imprese stanzieremo circa 15 miliardi di euro, ha detto Conte. Per il settore turistico cercheremo di introdurre un bonus per alimentare il turismo interno. Ci saranno anche provvedimenti di sostegno per le famiglie con bambini, per quelli meno abbienti, e si valuterà la riapertura sperimentale dei nidi e dei centri d'infanzia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 74 parlamentari della Lega occupano le aule di Camera e Senato ad oltranza. Fratelli d'Italia, Forza Italia si smarcano dalla Lega. All'interno della maggioranza non mancano le voci critiche per l'utilizzo dei decreti presidenziali da parte di Conte. Per Renzi, l'ultimo decreto delega al Comitato Tecnico Scientifico scelte che sono politiche, dunque parlamentari. Stefano Ceccanti del PD presenta un emendamento al decreto Covid per parlamentarizzare i decreti. Il problema esiste e avrebbe bisogno di una revisione. In fase di emergenza il decreto presidenziale assume un rilievo sconosciuto nella storia della Repubblica Italiana. La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Il Presidente può adottare decreti legge per fronteggiare situazioni impreviste che richiedono un intervento legislativo immediato. Durante la cosiddetta fase 2 i decreti andrebbero regolati con un parere preventivo e vincolante delle Camere, così alcune criticità potrebbero essere prevenute dal Parlamento senza che esso debba essere costretto ad intervenire in seguito a decisioni già prese. Così Daniele Biacchessi, l'analisi sul punto della situazione, qual è il ruolo del Parlamento in queste ore in cui prevale l'emergenza, ma in cui devono prevalere anche gli equilibri istituzionali. Naturalmente, dicevamo, però da ieri la Lega ha occupato le aule parlamentari e quindi ha iniziato questa forma di opposizione ancora più forte. Sentiamo. Nonostante qualche voce critica, in particolare da Italia Viva, la maggioranza sposa la linea sulla fase 2 tracciata dal Premier Conte. Il Movimento 5 Stelle invita a sostenere l'azione del governo per una ripresa graduale, sulla stessa linea il vice segretario del PD, Orlando. Non esiste un bivio nel quale da una parte c'è la strada della libertà percorsa o che vorrebbero percorrere gli intrepidi e dall'altra quella della pavidità, percorsa da qualcuno che addirittura ha quasi gusto a imporre dei divieti e delle restrizioni. Non ci sono queste due strade, perché non esiste una ripresa economica senza una sicurezza sanitaria. Le opposizioni restano invece all'attacco. Da ieri sera i parlamentari della Lega hanno occupato per protesta le aule di Camera e Senato. La pazienza è finita, dice Salvini. Si porta pazienza una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi. Direi che è venuto il momento per chiedere con fermezza risposte certe al governo. Andrea Viali, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo ai contrasti tra il governo e le regioni per le misure, le ordinanze e la fase di lockdown. L'esecutivo potrebbe diffidare la Calabria sulla misura che anticipa ad oggi la riapertura di bar e ristoranti all'aperto. Il ministro per gli affari regionali Boccia aveva chiesto che le differenze tra i territori scattassero solo dopo il 18 maggio, dopo due settimane quindi di sperimentazione del primo lockdown. Allora sentiamo le voci dei titolari di attività calabresi raggiunte oggi dal nostro Francesco Straticò a Reggio Calabria, sentiamo. Voi avete deciso di aprire subito? Come l'ordinanza del presidente Iole Santelli ha comunicato su Facebook, stamattina abbiamo deciso di aprire subito, visto i grossi disagi economici che abbiamo. Ecco, ma avete già avuto molti clienti, come è stata accolta? Pochissimo, perché stamattina accolta quei pochi che sono stati, erano abbastanza contenti finalmente di prendere un caffè. La sanificazione, noi ci siamo comprati personalmente una macchina ozono, quindi ce la siamo comprati noi e quindi ce la facciamo. Ma voi siete d'accordo a questa decisione di Iole Santelli? Ma onestamente io ci sarei andato un po' con i piedi di piombo, avrei aspettato il 18, però poi ognuno, penso che le persone stiano attente, insomma, perché non bisogna scherzare. Ma sicuramente la Calabria non può rimanere ferma in attesa di Fontana, che vuole tenere tutta l'Italia ferma in attesa che riparte la Lombardia. In Lombardia operativamente ci sono 70.000 aziende che stanno lavorando, la metropolitana è piena, i treni sono pieni e noi dovremmo stare chiusi. Per quale motivo? La Calabria vive di turismo. Queste dunque le voci dei calabresi raccolte da Francesco Straticò. E intanto ieri sera su un altro fronte, quello della app per il tracciamento dei contatti, è arrivato l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto con le misure necessarie soprattutto per quanto riguarda la tutela della privacy, l'app Immuni, che potrebbe essere scaricabile dal 18 di maggio. Per quanto riguarda l'app Immuni, dal CDM fanno sapere che il suo mancato utilizzo non comporta alcuna limitazione o conseguenza quanto all'esercizio dei diritti fondamentali. I dati personali raccolti sono infatti solo quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione che siano entrati in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 per tutelarne la salute e agevolandoli nell'adottare le previste misure di assistenza sanitaria. Riguardo all'app Immuni è stato inoltre precisato che ogni trattamento dei dati personali sarà interrotto alla cessazione dello stato d'emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data entro cui tutti i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. Nel pacchetto giustizia sono invece comprese la stretta sulle scarcerazioni e sui processi penali da remoto e il rinvio al 1 settembre dell'entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni prevista inizialmente per il 1 maggio. Per quanto riguarda la detenzione domiciliare e la concessione di permessi, nel caso di detenuti al 41 bis è necessario il parere del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera agli aeroporti di Ciampino e di Firenze. Nei prossimi giorni la ministra delle Infrastrutture De Micheli ha firmato di concerto col ministro della Salute Speranza il provvedimento che sancisce la ripresa alla piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola a partire dal 4 di maggio. La Oxford University e lo Jenner Institute hanno raggiunto un accordo con la multinazionale AstraZeneca sul vaccino anti-Covid. La società andrà alla produzione e la distribuzione nel mondo del vaccino, un vaccino che coinvolge anche la società italiana IRBM, secondo un modello, a quanto si è appreso oggi, no for profit, cioè che per tutta la durata della pandemia non ci saranno margini di profitto. E adesso allarghiamo la cronaca a livello mondiale sull'andamento della pandemia, ma anche sui tentativi di ripartenza. Più di 3 milioni di persone contagiate nel mondo, oltre 200.000 morti sono i dati aggiornati sul coronavirus che raccontano di paesi in piena emergenza come gli Stati Uniti, colpito con oltre 1 milione di contagi, 2.500 morti nelle ultime 24 ore, più di 60.000 da inizio epidemia. Corre il contagio anche in Gran Bretagna, che con oltre 26.000 vittime diventa il terzo paese al mondo dopo Stati Uniti e Italia per decessi. Anche la Francia, duramente colpita con oltre 24.000 vittime, e la Spagna con i suoi 23.000 morti. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.000 nuovi casi di coronavirus e il dato più alto giornaliero è il totale ora sfondato quota 100.000 contagi. Situazione drammatica in Brasile, 70.000 contagi, oltre 5.000 vittime. L'India domenica dovrebbe uscire dal lockdown, ma i dati parziali parlano di 30.000 contagiati, 937 vittime e i primi casi nelle baraccopoli come quelle di Dharawi a Mumbai, 2 chilometri quadrati abitati da circa 1 milione di persone. In Cina, stando ai dati ufficiali, i decessi sono 4.643, mentre la Corea del Sud ha segnato 0 contagi domestici di Covid-19 ieri per la prima volta dal 15 febbraio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Federal Reserve, la banca centrale americana, ha lasciato ieri i tassi di interesse invariati tra lo 0 e lo 0,25%. Il coronavirus pone grandi rischi nel medio termine e la Fed si impegna a usare tutti gli strumenti a sua disposizione per l'economia, è stato il comunicato di ieri. Oggi invece c'è la riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. Vi daremo conto degli esiti all'interno della puntata di Effetto Giorno. E ora i dati sull'occupazione nel primo trimestre del 2020 in Italia, dati che contengono già il primo mese di lockdown, il mese di marzo, scende il tasso di disoccupazione all'8,4%, ma la buona notizia è illusoria perché in realtà a calare sono anche gli occupati, compensati da un calo superiore delle persone in cerca di un lavoro, gli inattivi. Mai avuto un calo così forte, questo è il commento dell'Istat sul PIL nel primo trimestre che crolla a meno 4,7%, mai così dal 1995, giù tutte le componenti produttive, la stima risente degli ostacoli del coronavirus, negativa anche la variazione del PIL rispetto all'anno scorso e del 4,8% e a bocce ferme del 4,9% il risultato che si avrebbe in assenza di ulteriori variazioni fino a fine anno, impatto del Covid-19 anche sul mercato del lavoro. Brusco calo della disoccupazione in discesa all'8,4%, lievita il numero degli scoraggiati, di coloro cioè che non lavorano e non cercano occupazione, donne e uomini, tiene l'occupazione, ma è boom dell'inattività, addirittura 300.000 persone in più, 3 volte più elevata tra gli uomini rispetto alle donne, e impatto in senso opposto anche sul carrello della spesa, che mostra un balzo del 2,6% ai massimi dal 2017, ma le spinte sono contrapposte sugli alimentari, giù i carburanti, la forbice dell'inflazione sul carrello della spesa non è però mai stata così ampia. Ad aprile l'inflazione è stata azzerata. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di musica jazz. Si celebra oggi l'International Jazz Day, istituito nel 2011 dall'UNESCO, una giornata che riunisce persone di ogni luogo e cultura con lo scopo di far conoscere le virtù del jazz come strumento educativo, di dialogo e cooperazione tra le persone. Tante le iniziative per celebrare la ricorrenza quest'anno attraverso le tecnologie digitali, come impone la pandemia da Covid-19. In particolare gli eventi musicali saranno nei palinsesti sul digitale, ma anche sui social sotto l'hashtag La cultura non si ferma. 13:14, noi invece ci fermiamo, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, che sarà con noi per spiegarci come e perché viene contestata la fase 2 e quali sono le ordinanze in più, le cose in più che si possono fare in quella regione che ad onore del vero ha un fortunatamente basso numero di contagi. Poi nell'ultima parte di Effetto Giorno, ve lo anticipo, ancora una ricerca italiana già in fase avanzata per una nuova cura contro il coronavirus. Più tardi. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il Presidente del Consiglio risponde alla Camera alle critiche di regioni e opposizione dagli enti locali, dice iniziative improvvide e illegittime. Le regioni intanto procedono però in ordine sparso, bar e ristoranti aperti da oggi in Calabria, in Liguria sia vivai e toilettatura per cani, manutenzioni e seconde case in Friuli. Ne parliamo tra poco col Presidente Fedriga. Si sblocca l'iter per la app Immuni, via libera al decreto per la tutela della privacy, l'app sarà scaricabile dal 18 maggio. 13 e 17 minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, questi titoli delle notizie di oggi. Tra poco, come anticipato, sentiremo il presidente della Friuli, del Friuli Venezia Giulia Fedriga, è uno degli animatori delle proteste di queste ore da parte delle regioni nei confronti della linea tenuta dal governo. Un settore strategico di questa fase, lo abbiamo già detto diverse volte, è quello dei trasporti, e su questo vi vogliamo dare un aggiornamento, uno sviluppo, perché varie organizzazioni chiedono al governo che vengano aperti bar e tavole calde lungo la strada ordinaria, replicando quello che già avviene a livello di autostrade e di autogrill. In molte zone gli autotrasportatori non hanno infatti dove rifocillarsi per centinaia di chilometri. Sembra un aspetto minimo, ma anche questo rientra in una organizzazione che in questo momento il paese si deve dare. Sentiamo. Le aziende dell'autotrasporto arrancano tra crisi di liquidità, tempi di pagamento dilatati, con il calo dei traffici che resta vicino al 50%, e gli autotrasportatori, categoria in prima linea nell'emergenza, spesso operano tra mille disagi indotti dalle misure preventive che impongono tempi e modalità di lavoro stravolti, lunghe attese negli hub logistici per caricare e scaricare e pochi servizi lungo i viaggi. Se sulle autostrade le aree di ristoro sono rimaste aperte, non così avviene lungo statali e provinciali, che in molte zone d'Italia sono vie di comunicazione strategiche. Significa viaggi interminabili senza potersi fermare in luoghi attrezzati a consumare magari solo un caffè. Di qui la proposta al governo da parte di Conftrasporto, della Federazione dei Gestori Impianti di Carburanti e di quella dei pubblici esercizi, di consentire anche l'apertura delle aree di servizio poste sulla viabilità ordinaria. Andrea Manfron è il segretario generale di FAI Conftrasporto. Ci sembrerebbe, tra parentesi, coerente con quello che è stato fatto nell'ultimo DPCM. Da una parte si consente a chi fa servizi di ristorazione di fare consegna a domicilio e contemporaneamente di consentire servizio di ristorazione da sport. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come anticipato è con noi Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Benvenuto, grazie Federica. Allora, oggi il Presidente del Consiglio Conte, rispondendo alle critiche che gli sono state mosse dall'opposizione ma anche da diverse regioni, ha detto: attenzione, ancora una volta ci vuole prudenza, perché secondo il rapporto scientifico del Comitato Tecnico, secondo i vari modelli, se avessimo riaperto tutto, completamente tutto, già nel mese di maggio ci sarebbe stato un rischio altissimo di ripartenza dei contagi. Il governo ha anche detto che dopo il 18 maggio potranno esserci delle differenze territoriali una volta che si sperimentino queste prime due settimane. Voi però avete detto e ribadito: non basta, vogliamo più libertà di decidere e riaprire subito alcune attività. Io le chiedo, Federica, perché, parlando della sua regione, che a onore del vero è una regione dove i contagi non sono molto alti, anzi fortunatamente sono abbastanza contenuti. Guardi, intanto voglio partire dall'inizio. Noi abbiamo fatto, il Friuli Venezia Giulia ha fatto misure di blocco prima addirittura di avere il primo contagio, su decisione di questa regione. Addirittura la seconda settimana ho chiuso di mia iniziativa scuole e università, E devo dire che i numeri che lei ricordava, io leggevo oggi il rapporto Gimbe, dove dice che il Friuli Venezia Giulia, tra tutte le regioni del nord, è quella che è messa meglio anche di alcune regioni del sud. Quindi evidentemente siamo in una buona situazione, proprio perché abbiamo riuscito di chiudere tutto subito, proprio per cercare di riaprire prima e ridare ossigeno alle attività produttive e alle persone. Io non credo che in questo momento, guardi, l'alternativa sia o teniamo tutti a casa e teniamo tutto chiuso o apriamo tutto. Io penso che ci sia anche intanto una via di buon senso. In secondo luogo io vedo una tensione sociale enorme e devo dire anche più che comprensibile, che ci porterà di fatto a riaprire, ad uscire senza regole. Quindi la politica deve prendersi la responsabilità, supportata ovviamente anche dalla parte scientifica, di dire come riaprire, ed è quello che abbiamo chiesto nella lettera al governo. Dia le regole di distanze di sicurezza, di mascherine, di gel igienizzanti, di tutto quello che serve. Chi rispetta quelle regole che garantiscono al massimo del possibile il contenimento della diffusione del virus può riaprire. Altrimenti è incomprensibile, se permette, che da lunedì, io penso al negoziante che non ce la fa più a pagare l'affitto perché è chiuso da mesi e vede che lunedì possono riaprire delle aziende, giustamente, non è che voglio contestare quello, ma delle aziende dove magari hanno 2000 dipendenti. Però per capire, Federica, se ho capito bene, lei dice più che fare un elenco di attività consentite o non consentite, forse bisogna dare dei principi e delle regole chiare sul distanziamento sociale, sull'obbligo di utilizzare gel e mascherine, eccetera, eccetera, e poi chi riesce a rispettare queste norme apre, senza elenchi con punti e senza, diciamo, specificare congiunti, affetti stabili o cose di questo genere. Chi non riesce deve rimanere chiuso perché non può garantire queste condizioni, cioè quindi invertire questo paradigma, se ho capito bene. Però le faccio subito un'obiezione, perché leggendo alcune delle ordinanze, non le sue a dire la verità, ma mi sono imbattuto in quella della regione Liguria, che ha una posizione comunque simile alla vostra, l'elenco c'è anche lì, cioè si va dalla manutenzione delle barche, i vivai, l'orto familiare, la toilettatura per cani, cioè sembra che non si esca da questo dinamica, o è possibile invece secondo voi? Voi come vi siete mossi? No, ma ovviamente noi le ordinanze l'abbiamo fatte rispetto al DPCM in essere, però lei ha fatto un perfetto riassunto della mia posizione e di molte regioni italiane. Però le faccio un esempio, le sembra normale che da lunedì 4 non posso andare a Sappada o a Tarvisi o a Lignano o a Grado per vedere se la mia casa è in ordine, se ci sono dei problemi ed altro, però se ho un caro amico a Sappada, Tarvisi o a Grado o a Lignano ci posso andare. Cioè, noi dobbiamo dare delle regole che siano comprensibili ai cittadini e che siano condivise, perché si esce dalla crisi se c'è una condivisione con la popolazione. I dati del Friuli Venezia Giulia, guardi, lo dico con chiarezza, non è merito mio, non sono dovute alle mie ordinanze, è dovuto dal fatto che la gente responsabilmente si è messa insieme, le ha rispettate e si è comportata perché le condivideva e perché capiva la crisi. Se noi pensiamo di andare avanti a forza di conferenze stampa alle 20:30 sui TG nazionali, per imporre senza che ci sia una condivisione da parte dei cittadini, la mia preoccupazione è che questo modello non terrà più. O capiamo che il paese si governa, non si comanda, che le regioni si governano, non si comandano, oppure la situazione andrà fuori controllo. Senta Federica, un'altra cosa, il parametro da tenere sotto osservazione, questo credo per tutti, è quello anche della capacità di contenimento dei casi, quindi il numero dei casi, eventuali nuovi focolai, ma anche la saturazione delle terapie intensive. Per quanto riguarda la sua regione, considerando che durante l'estate è immaginabile che ci sia un afflusso anche turistico nelle regioni che hanno sbocco sul mare o che hanno località di montagne attrattive, voi da questo punto di vista come vi state muovendo? Non temete che ci possa essere un'ondata, per esempio anche a maggio-giugno, quindi che comunque la gradualità vada mantenuta sotto questo aspetto del turismo, che poi ci sarà, speriamo? Guarda, io penso che la gradualità deve essere mantenuta, come l'ho detto, nei modi comportamentali. Dire appunto utilizziamo le mascherine, da me, nella mia ordinanza che è in vigore, ovviamente mia intenzione è rinnovarla, c'è l'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi pubblici, comprese le strade, perché anche questo, io penso in un centro urbano dove persone si possono incontrare, avere magari vicinanze, seppur magari limitate nel tempo, però i classici goccioline di saliva che da uno starnuto, da un colpo di tosse possono andare, io penso che sia utile utilizzare in questo caso un metodo di precauzione maggiore rispetto a uno minore, proprio per permettere alle persone di ritornare, non dico a una vita normale, ma perlomeno a poter tornare a lavorare e uscire per strada. Certo. E comunque noi abbiamo fatto un potenziamento enorme, per esempio delle terapie intensive. Pensi che noi siamo partiti con 29 terapie intensive dedicate a Covid. Oggi potremmo aumentarle fino a 140, le abbiamo dovute diminuire a meno di 100 perché ad oggi non abbiamo bisogno, ma sono pronte. Questa è una buona notizia. Abbiamo portato a 400 i posti letto per Covid che non necessitano di terapie intensive, ma subintensivo o altro tipo di cura. Adesso penso che la strategia sia proprio quello che ha detto lei, cioè potenziare anche quando si verifica un nuovo positivo e il rischio di un nuovo focolaio, riuscire a tamponare il positivo e tutte le persone entrate in contatto, che è la strategia che abbiamo utilizzato. Ecco, a proposito di questo, Federica, le voglio chiedere un'ultima cosa prima di salutarci, che riguarda la app Immuni. Ieri il governo ha approvato le prime misure per quanto riguarda la tutela della privacy. C'è molto scetticismo da parte di una buona parte degli italiani, forse metà, che sembrerebbero intenzionati a non volerla fare per non voler dare i dati, che poi dati non sono perché c'erano dei codici alfanumerici, ma insomma lo scetticismo e le paure delle persone vanno comunque sempre rispettate. Io le chiedo, lei che indicazioni darete in Friuli? Lei personalmente la scaricherà? Io la scaricherò, ma no, gli dico che noi abbiamo già pronta la nostra app, che ci hanno bloccato perché hanno detto che sarebbe solo quella nazionale, che funziona come funzionerà Immuni, la nostra è pronta, infatti abbiamo dato disponibilità al governo anche di utilizzarla, rispetta totalmente la privacy, ma di fatto, per tranquillizzare anche i vostri ascoltatori, fa esattamente quello che viene fatto oggi per via, diciamo, manuale. Cioè oggi, quando viene trovato un positivo, che cosa ha fatto, i contatti che ha avuto. Con chi è stato in contatto e si va a ritracciare. Lo facciamo semplicemente in modo automatico, così che non ci sia il rischio che magari con una dimenticanza o d'altro rischiamo che una persona entrata in contatto, magari diventata positiva, vada in giro e prenda altre persone. Ma non possiamo vedere niente. L'unico che possono vedere è la persona del servizio prevenzione, del servizio sanitario regionale, che contatta la persona è diventata positiva. Nessun altro la può vedere. Già oggi il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia ha il 70% dei numeri telefonici, perché gestiamo anche la privacy di tutti i soggetti che ovviamente usufruiscono del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia. Quindi non c'è nulla di più e quei dati non vanno in mano a nessuno. Devo dire, mi sembra un po' strano questi ragionamenti. Ribadisco, è giusto fare chiarezza e dire alle persone che non c'è problema di privacy. Sì. Però quando andiamo su Facebook, su Amazon, su Instagram, per mettere una foto, gli diamo molti più dati che gestiscono società private con server all'estero, e quindi direi che bisogna fidarsi dei nostri sistemi sanitari regionali. C'è una buona ragione, quantomeno questa volta. Grazie Federica, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Adesso allarghiamo lo sguardo all'Europa, un paese vicino, la Germania. Lunedì 4 maggio anche la Germania si prepara ad allentare il suo lockdown a questo, riapertura delle scuole, negozi, ma non per esempio ristoranti, la vita notturna soprattutto. A questo è dedicato il reportage Raffaella Calandra, in onda domenica mattina alle 8:15. Tra gli animatori della vita notturna c'è un italiano a Berlino che si chiama Danilo Rosato. Sentiamo l'anticipazione del reportage. Raffaella Calandra. Dal comune ci hanno un po' fatto intuire che prima del 1 gennaio non penso che riaprino il club. Quindi un intero anno di blocco. E questo perché ovviamente nei club con grandi numeri, diciamo, è praticamente impossibile mantenere distanze e piccoli gruppi. La socialità è fondamentale per il club. Quindi questa chiusura prolungata, che però si porta dietro un'industria notevole, che è una parte importante della vita di Berlino. Berlino è il clubbing. È un po' come a Roma, il Colosseo, Parigi, la Torre Eiffel, a Berlino il club. Senza quello si ferma anche un po' l'economia della città. Avrete dei sostegni economici per il mancato guadagno dovuto alla chiusura? Allora, da quel punto di vista la città è stata fantastica. Noi abbiamo fatto immediatamente, appena hanno annunciato il lockdown, avevano già pronto un programma per artisti, musicisti, anche lavoratori informali dello spettacolo. Ha dato la possibilità a tutti di accedere a un sito web, domandare quanto volevi, che erano da 5.000 a 14.000 euro. Sua mamma purtroppo è stata anche contagiata dal virus, ma lei in Germania è stato accusato di essere un panic maker. Io facevo vedere la fotografia di mia madre, loro non capivano. In Germania è mancata quella manifestazione plastica del dolore. 13:30, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, le altre notizie, le informazioni di borsa, i titoli e poi, come anticipato, faremo il punto anche sulle terapie per il SARS-CoV-2 e in particolare con un ricercatore italiano che sta sperimentando e potrebbe, insomma, presto essere una cura, una delle poche cure specifiche che ci sono. Anche questa è un'iniziativa italiana. Ne parliamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il Presidente del Consiglio risponde alle critiche delle regioni e dell'opposizione. Riaprendo tutto a maggio, dice Conte, il contagio sarebbe altissimo. Le regioni intanto procedono in ordine sparso, bar e ristoranti aperti da oggi in Calabria. Si sblocca l'iter per l'app Immuni, via libera al decreto per la tutela della privacy. L'app sarà scaricabile dal 18 maggio. L'Istat, l'emergenza spinge i prezzi dei beni alimentari, disoccupazione all'8,4%, calano le persone in cerca di un lavoro. Ben ritrovati cari ascoltatori in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, commenti in particolare all'intervista con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che avete sentito chiede, come dire, intanto un principio diverso, non un elenco di cose che si possono e non si possono fare, ma a fronte di regole chiare, sostanzialmente però sì, via liberi tutti, utilizzando mascherine, gel igienificatori, distanziamento sociale, ma questa, diciamo, è la richiesta che arriva da molte regioni. Sapete che c'è uno scontro in queste ore, abbiamo anche detto quello che ha riferito Conte in Parlamento. Dicevamo i messaggi. Dice questo ascoltatore, ma aspettare 18 giorni gli costa così tanto dopo due mesi, rovinando tutto all'ultimo metro? E questo è anche un punto di vista. Poi c'è ancora chi dice, per esempio, gli enti locali dovrebbero consentire aperture in base al numero di persone che possono essere trasportate in maniera sicura. Questo mi sembra un ragionamento molto sensato. Se i treni portano il 25% dei pendolari, non si può autorizzare l'apertura di attività che richiedono il movimento del 60% delle persone. I trasporti saranno sicuramente al centro dell'attenzione di questo avvio di fase 2. Vedremo se saremo in grado di reggere, come. Naturalmente c'è tempo per parlarne, per valutarlo. Speriamo che in tanti, come abbiamo raccontato anche ieri, prendano i mezzi privati e la bicicletta, per esempio. Una bella inforcata di due ruote sotto il sole del mese di maggio, meglio che mettersi su un mezzo pubblico affollato con la paura, o in auto in coda, sicuramente, perché questo sarà almeno nelle città. Il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. L'occupazione del Parlamento e la levata di scudi delle regioni è evidente che rispondono a una fase 2 dell'opposizione, soprattutto della Lega, in difficoltà nei sondaggi e nell'elaborazione di un nuovo modo di fare politica ai tempi della pandemia. D'altro canto è vero che le incertezze e le leggerezze del governo nel dispiegamento della fase 2 lasciano campo libero alle critiche e alla necessità di colmare lacune anche gravi. La carenza di leadership nella gestione della crisi ogni giorno ci rimanda a un modo di procedere a tentoni, come se si camminasse in una stanza buia. Invece servono indicazioni più chiare sulle priorità strategiche vere, a cominciare da quelle sanitarie. Abbiamo tutti apprezzato la fase 1 e la corsa a creare reparti Covid e terapie intensive supplementari, ma ora è la fase della diagnostica, dei tamponi a tappeto e dei test, che sono tra l'altro la base dati indispensabile anche a far funzionare le app per il tracciamento, che altrimenti non avrebbero informazioni da condividere e sarebbero del tutto inutili. Di questo non si parla però, si parla in modo non sistemico. È qui che dovrebbero concentrarsi gli investimenti, nella produzione dei tamponi e dei test, moltiplicando gli impianti, e soprattutto nella possibilità di processarli rapidamente, in modo capillare. Non ci sono laboratori sufficienti? Li faccia lo Stato con un piano straordinario per aprire siti e fare assunzioni in massa. È una priorità. E magari alla fine si scoprirà che sarà stata utile anche alla ripartenza del PIL. Anche anche oggi, anche nella puntata di oggi, una notizia di diciamo così, di positività, di ottimismo, un aspetto costruttivo, qualcosa a cui aggrapparci in questa fase in cui si comincia a ritornare a vivere, ma a convivere soprattutto col virus, grazie soprattutto alle possibili terapie. Allora, breve riepilogo, fino ad oggi ce ne sono poche, lo sapete, si sta sperimentando con risultati positivi il plasma di pazienti guariti, lo stanno facendo a Mantova, a Pavia, anche a Pisa. Presto diventerà un protocollo per anche gli altri ospedali. Poi c'è la clorochina, l'antimalarico con azione antinfiammatoria ma anche antivirale. Poi c'è il tocilizumab, se ho ben pronunciato, e altri assimilabili farmaci antireumatoidi per contenere soprattutto la reazione infiammatoria portata dall'apparato immunitario. Poi c'è l'eparina per evitare le conseguenze cardiovascolari, credo averne dette quasi tutti. Una speranza nuova arriva dall'Italia, una terapia progettata a base di tre farmaci esistenti dal team guidato dal professor Giacomo Rossi, che è qui con noi, lo ringrazio intanto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Giacomo Rossi, che è ordinario di fisiopatologia e immunopatologia della scuola di medicina veterinaria all'Università di Camerino. Lei è partito, se ho capito bene, dai gatti, è così? Sì, sì, diciamo che l'inizio dello studio è stato un po' sui coronavirus degli animali, sì. Visto che in veterinaria ne conosciamo tanti, visto che ogni specie animale, anche le specie diciamo da affezione, sono affette dal loro coronavirus, e questo è stato un po' l'avvio dello studio e anche di questa scoperta, in quanto valutando e confrontando le differenze strutturali dei coronavirus degli animali, soprattutto il punto di attacco alla cellula che utilizzano i coronavirus animali rispetto appunto a quello dell'uomo, ho potuto notare delle peculiarità, delle differenze abbastanza importanti, non solo da un punto di vista del recettore, ma anche dal fatto che il coronavirus Covid-19 ha dei siti di glicosilazione molto più evidenti e molto più abbondanti rispetto a quello degli animali. In poche parole, sono dei siti dove degli zuccheri si legano alle proteine e che ancorano un po' quei raggi che formano la corona del virus. Bene, valutando proprio questo tipo di attacco, ho visto che questi zuccheri si legano a un azoto terminale di queste catene proteiche di un aminoacido che costantemente è l'asparagina. E da qui è venuta appunto l'idea di utilizzare un vecchio farmaco che è ben conosciuto dagli oncologi, visto che si utilizza nella terapia delle leucemie acute, che è la L-asparaginasi. Si tratta di un enzima, come dice la parola stessa, che va a ridurre la quantità cellulare dell'aminoacido asparagina. Quali, rispetto alla bellissima disamina che ha fatto di tutti i farmaci, un po' un prospetto a 360 gradi di quello che è l'approccio terapeutico, ecco, attuale, su quale spettro si va a collocare la sua terapia? Infatti, diciamo su tre punti fondamentali. Il primo è proprio quello che le dicevo, cioè andare a ridurre la presenza di questo aminoacido e quindi ridurre la quantità di recettori disponibili al virus per legarsi alle cellule. Quindi questo è un aspetto fortemente antivirale, direttamente antivirale. Antivirale che diciamo agisce su tre piani. Il primo è quello proprio del recettore, il secondo è dato dal fatto che l'asparagina, come tutti gli aminoacidi, è fondamentale per la sintesi proteica, per cui se noi la togliamo riduciamo anche la sintesi proteica. Ora, molte di quelle citochine di cui lei parlava, quelle che provocano la reazione infiammatoria dell'apparato immunitario. Senz'altro, quella per le quali appunto esistono oggi farmaci come l'antiinterleuchina 6 e altri citava, ovviamente queste interleuchine sono proteine, vengono sintetizzate dalla cellula, per cui se noi andiamo a ridurre o inficiare la sintesi proteica, e questo deprivando la cellula di asparagina lo possiamo fare, riduciamo indirettamente anche la produzione di queste grandi quantità di citochine che inducono poi questa flogosi così forte, che molto spesso è l'effetto più negativo, che ha l'impatto diciamo peggiore sul paziente. paziente. Cioè, diciamo, per spiegare molto semplicemente, è stato già detto, ma lo ricordiamo in questa occasione, visto che ce lo sta dicendo, è come se nella zona dove il virus si sta riproducendo di più, dove questa reazione l'apparato immunitario è più forte, i polmoni, come se andasse a fuoco perché c'è questo eccesso di reazioni immunitarie. Effettivamente è così, tant'è vero che questo tra l'altro non è una novità, perché anche nella prima SARS, ma addirittura nella prima pandemia H1N1 da virus influenzale, così come nella spagnola, questi furono proprio i presupposti per la elevata mortalità. Molto spesso il nostro organismo reagisce con l'infiammazione, che è un male necessario perché ci salva da tante cose, ma se è disregolata, cioè se è esagerata, ci produce anche dei danni molto gravi, degli effetti collaterali importanti. A che punto è questo studio, questa sperimentazione? Lei che aspettative si è fatto? Cioè, quanto tempo potrebbe mancare per poter diventare una terapia? Allora, guardi, chiarendo subito appunto che non siamo assolutamente nel campo immunologico, che è quello che ci fa nutrire le maggiori speranze di un ritorno alla normalità, ma è anche quello più lungo, perché dalla progettazione di un vaccino alla sua sperimentazione, quindi trial clinici, fino addirittura a un suo uso comune, possono passare tempi veramente molto lunghi, anche se si accelerano, come si sta facendo per fortuna in questo periodo. Qui siamo invece in una terapia farmacologica e, come diceva giustamente lei, quando queste terapie si basano su farmaci già conosciuti, quindi già noti, di cui si sanno già effetti collaterali, dose massima, dose minima, eccetera, le procedure di sperimentazione o comunque i trial clinici sono molto molto velocizzati, anche perché se ne può fare un uso cosiddetto compassionevole o off-label, cioè quando non c'è una terapia dedicata, si possono utilizzare in caso di necessità e di bisogno secondo il parere del medico che sta operando. E questo operando. Nel vostro caso lo si sta già facendo? Dove lo si sta allora, facendo? Allora, dunque, per le peculiarità di questo protocollo, soprattutto per il fatto che come magari avrà anche saputo, laddove c'è stato un forte interessamento di un grande produttore oltre che ricercatore canadese, che lo ha preso e lo ha registrato, quindi lo ha brevettato negli Stati Uniti, i primi trial sono iniziati proprio a Montreal, sono proprio della scorsa settimana, quindi ci sono dei pazienti che vengono arruolati là. Ci sono però anche degli ospedali, proprio ieri sera mi sono sentito, mi dicevano che per esempio l'ospedale di San Benedetto del Tronto, anche altri che sono ospedali Covid, stanno facendo la richiesta per poter applicare, quindi diciamo una liberatoria da parte di chi lo ha brevettato per poterlo applicare anche nel nostro paese. Ma ora io non ho nulla contro Montreal, figuriamoci, però mi domando com'è che un progetto nato in Italia da un scienziato italiano, comunque da clinici italiani che ci stanno lavorando, poi però nel momento dell'applicazione vola, prende il volo e finisce in Canada. C'è un anello mancante, qualcosa che qualcuno che non l'ha seguito. C'è veramente due fattori. Uno è veramente il caso, che in questo caso secondo me ha giocato a favore perché ha fatto saltare anche dei passaggi intermedi, e l'altro il fatto che Camerino, come saprà, si trova nella regione Marche. Ci sono veramente un sacco di marchigiani molto importanti in giro per il mondo che hanno fatto successo, fortuna. Sì. Questo ricercatore è proprio un italo-canadese nato nelle Marche ad Ascoli Piceno, e poi dopo si è trasferito dopo la Seconda Guerra Mondiale in Canada, e lì veramente ha creato un impero. Cioè, è un suo contatto in qualche modo personale, quindi si è creato questa apertura. Però insomma, mi sta dicendo che si sta tentando di sperimentarlo anche in Italia. Quanto tempo lei pensa che necessiti per questi trial clinici? Ci lasciamo con questa risposta. Tra quanto tempo potrebbe essere una terapia da usare in corsia? Guardi, trattandosi di una terapia acuta, tutti i trial, vede anche quelli che sono cominciati all'inizio di marzo, ora cominciano a dare i primi risultati, per cui io penso in un mese e mezzo potremmo avere già dei buoni risultati, una base valida di valutazione. Grazie al professor Giacomo Rossi, grazie per essere stato con noi davvero. E quindi avete sentito una speranza anche questa, un mese e mezzo di attesa nel cuore dell'estate, un'altra risposta in questo caso sul fronte della terapia che potrebbe arrivare al Covid-19. Pausa, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.